stasera non chiamarmi. No, stasera devo uscire con lui. Lo sai, non è possibile. Io lo vorrei, ma poi mi viene voglia di piangere. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Ma amici mai, per chi si cerca come noi. Per chi si ama come noi, basta sorridere. No, no, non piangere. Ma come faccio io a non piangere? Oh, oh, tu per me sei sempre l'unica. Straordinaria, normalissima, vicina e irraggiungibile, inafferrabile, incomprensibile. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, non è. Con lui il nostro